Le Olimpiadi diventano politiche. Al G8 di Hokkaido, durante l'incontro con George W. Bush, anche il primo ministro giapponese Yasuo Fukuda ha annunciato ieri che si recherà alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Pechino. E Bush, attaccato in patria per aver aderito all'invito cinese, ha confermato le ragioni per la sua partecipazione. Intanto ha detto: per sostenere i nostri atleti, e poi per discutere più apertamente con la leadership cinese dei progressi necessari in materia di libertà civili. Altri leader di questo G8 orientale, gli europei Angela Merkel e Gordon Brown, hanno invece annunciato in un chiaro segnale di protesta che non andranno. Silvio Berlusconi, che Hokkaido potrà chiarire meglio la sua posizione, per ora si prevede di mandare un sottosegretario, ma oltre alla politica per Pechino passa anche l'economia. L'intreccio con la Cina è ormai fortissimo, argomenti centrali di questo G8 discussi da Bush e Fukuda ieri, come dollaro debole, la crisi petrolifera, quella finanziaria, la necessità di ridurre le emissioni, non potranno essere risolti davvero senza la partecipazione cinese. A Pechino, ha detto ancora Bush, si potrà anche riprendere il dialogo avviato a questo G8. Mario Platero, GR24, Il Sole 24 Ore, a Hokkaido, al seguito del presidente Bush.